Buonasera. Buonasera signor Giovanni, beh, come stiamo? Bene? Sì. Oggi mi sento più bene, dai, tranquillo. Oh, così è. Allora andiamo. Più bene di così non si può andare, so, che vuoi fare? Da passa piano piano, vai. Passa piano. Una cosa, come adesso la radio? Come? Come la radio, buona? Mi sembra un po' rauca, beh, appena un po' rauca. Guarda dove era adesso. Adesso è migliorato perché c'è l'eco in mezzo. Sì, fa un altro passaggio. Guarda dove era, lo trovo. Adesso va con il coso. 706. Ci sarà qualche botto in più. Ascolta, provo a abbassare il micchino appena, perché mi sembra un po' rauca, ma non molto, un pochettino. Provo a abbassare un po'. Non è pulita, si riesce a capire abbastanza bene, però non è perfetta, ecco. Qua dovremmo cercare un attimo. Dopo la prova. Cercalo, dai. Prova a abbassare il passaggio. Prova a abbassare i bassi per un po', a quanti sì. I bassi sono bassi, sono. I bassi sono bassi. Ma abbassa, prova a abbassarli ancora. Ce l'ho a 5, ce l'ho. A quanto? I bassi ce l'ho a 5. So come passa brutti. Forse bisogna abbassarla a 4. Aspetta un attimo. Ecco che mettendo il coso poi dovrebbe andare. Adesso mi sembra più forte la radio. Però non è chiara, capito? Allora bisogna abbassare il mic che oppure appena l'eco, abbassa l'eco per vedere un pochettino. Guarda vedere adesso. Adesso è più chiara sto. Perché ho abbassato il coso del volume, ecco perché. Infatti, no, adesso è più chiara, ma è tutto fatto di regolazioni, capito? Perché va bene con il microfono con quell'apparecchio. È bella forza pure. Ma tu devi vedere oggi, certo, è poco si tratta. Me lo immagino, me lo immagino. La radio è fortissima. Ti si è pensato allora tu? L'ho messo la batteria, solo che toccano poi tre batterie e si è rotto il filo. Allora l'ho dovuto prendere e fare tutto a nuovo e ho messo le guaine che si stringono, le ho messo, per non stare a muoversi troppo il filo, ecco cos'è. E io l'ho messo bene, mi sono capentato, dove sono mangiato? Faccio bene, quella guerra restringente, quella li blocca e per cui è tranquillo. L'importante è che ci sia la saldatura perfetta, capito? Quello è molto importante. Poi quando ci con la guaina già lo blocca direttamente. Sì, no, quello l'ho fatto, la saldatura l'ho fatta bene, la buglia. Poi ci ho messo la guaina stringente, una nera e una rossa, che per passare a un ruolo e a sapere uno. Le ho fatte proprio alla perfezione. Ma sto andando con la batteria Conabi, sto andando. Aggiungi che speriamo che non si rimanga la retra. Penso di no. Ascolta, dimmi dunque, la potenza quanto è? Perché forse leggermente quel macchino più basso è più chiaro allo stesso, va più bene. Se bisogna trovare il macchino, mi sembra che era 5 hai detto, mettila a 3 e il macchino a vedere un po'. Mi devo prendere il libro, mi devo prendere a leggerlo. perché così no, no, non riesco ad andare avanti, non riesco. No, comunque l'apparecchio va bene, solo che se ci riesce a avere la più chiara, la radio è forte, però deve essere leggermente più chiara, va benissimo il tuo, va bene adesso, ma non è perfetta, perfetta, tutto lì, comunque si riesce a capire abbastanza bene, dai. Sì, no, per quello sì, certo. Così dovrò abbassare anche di apparatura di potenza, che non mi già accendi più di 30 watt, no, 30 watt mi sta dando, sì, sì, è così, la cosa se ne sale a 1 e 2, 1 e 3 se ne sale quando parlo. No, la potenza, lì bisogna abbassare la potenza. Io penso che adesso abbassando la potenza la radio diventa più chiara, dovrebbe diventare più chiara, capito? Ma è tutto parte di regolazione, insomma, perché il microfono va bene, però se è più chiara è meglio ancora, capito? Allora posso dire che è perfetta. Forse sì, infatti, forse sì, già così. Non mette invece che a 3, non metterlo a cosa, a 5, a metterlo a 4. Ecco cos'è. Forse sì. Infatti. Perché quegli apparecchi mi sembra così, magari mettendo a 5, sembra così, ma sono di più di 5, capito? L'apparecchio così, perlomeno. Questo qua è così, quello che ho io è così. Cacca, a 2 watt, cacca, a 2 watt passa ai 5, capito? Sì, infatti è così che mi devo cercare, prendere il libro, devo prendere e guardare a vedere, non dove devo andare. Ascolta, fa una cosa, ecco, mettere allora quell'apparecchio, metto a 2 watt e proviamo a 2 watt, vediamo un po' come esce. Aspetta che devo prendere il libro. Abbassi il tasto, guarda, e ce lo regolo. Devi abbassare, come si chiama, per abbassare sotto i numeri dei canali c'è un tasto, abbassa quello e ti regoli la potenza, capito? Sì, ora mi hai dato dove devo andare, aspetta che devo guardare, che se no non so dove devo andare, perché qua sotto i tasti sono 4, però sono 3, non sono uno con l'altro. Allora, dunque, dove c'è scritto WFOA, WFOB, a fianco, sotto c'è il display, allora, aspetta, prendo come si chiama, gli occhiali, l'archivio, te lo dico subito come. Allora, qua c'è scritto quel tasto, più su dell'occhio, c'è un tasto, dove c'è scritto display. Ecco, abbassa quello, se ne promuta per appena, ci dice quanti facci stai uscendo. E te lo regolo, più e meno. Sì, la rotella aumenta o diminuisci, capito? Ma questa è sotto 0,6. Forse hai capito che avevo comprato nel menu prima. No, è così, non so. Ce l'ho faccio davanti, tu. Ce l'ho davanti. Tu abbassa quel tasso allora di sotto c'è l'occhio, più appena più giù c'è il display, ecco abbassa quello lì e vedi in qualche faccia c'è un scelto. Aspetta un attimino che sto guardando e poi ricorso. Dore, tu dimmi Gianmarino. allora trovato là. Guardando sto, qual è? Sto facile, cara, te sto dicendo. Guarda, c'è un tasso dove c'è la rotella del WFO. Dice locato. Di sopra c'è display. Tu abbassa quel tasto ti rappresenta ti fa vedere i power, capito? Così di qua, boh, dopo lo riabbassi ed è la frequenza normale, capito? Ma quale dei fatti che stai dicendo tu? Non ce ne sono altri, ci sono più cose che devo spingere e basta, no? Il resto devo cercare nel menu qua. Sotto il luogo devo giocare un menù, non devo giocare un motore, come quello l'altro che c'è tu. Sai qua è diverso. Io ho quello di preciso al tuo, cioè. Io ho quello lì, sto usando quello lì adesso. Ecco perché te lo sto dicendo. È normale, tu. È normale, preciso al mio, Beh, aspetta che ti mando la foto, come ce l'ho io, aspetta, A te la mando? Otto, guarda che ti ho mandato la foto. Betto, non l'hai trovato? Sì, sto guardando a vedere. Non è che ti ho mandato la foto. Guarda come quella foto. E lì che fa la dove esce? Chi c'è? Fai che quello non è uscito, però non mi si apre. Qua ti sento, occupa la radio, molto occupa, Sì. Forse, però la radio occupa su questo apparecchio, forse è la recensione mia che è così, Comunque, vedi come, allora, dove c'è scritto locuto, più su c'è l'altro tasto, abbassalo quel tasto che c'è scritto display, abbassalo e ti dice il power. A 5. Ah? A 5. A 5? E quello per abbassare, cazzo, fa da un watt a tanti watt, capito? E se tu abbassi quel tasto, ti dice quanti watt stai uscendo. E poi se vuoi aumentare, giri la manopola e giri più o meno, capito? Ma qui io l'ho messo a 4, l'ho messo. Fai un passaggio più lungo. Guarda a vedere, vai a 3. Certo, vedi un po', e ho ragione io, so. Allora, sai cosa bisogna fare, infatti. Allora, io ce l'ho a 2, però io ti sento più perfetto. Mettila a 2 adesso. A 2 come ce l'ho io, capito? Provaci. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. Vedi, cazzato, te l'ho detto, tutto fatto in regolazioni. È perfetta la radio, Perfettissima, so. Bene mi senti a me. Sì, io a voglia se ti sento bene. Quindi la potenza, aspetta a vedere. Per la potenza com'era? La frequenza è 27, 255, però non c'entra niente, sei su 23, so. Sei su 23, per cui è perfetta la radio adesso, so. Non toccare niente, va bene così. Non è quello, la potenza sto dicendo. La potenza a 2, io ce l'ho a 2, così che metto a 2 lo stesso, come questo qua. È più perfetta. Betto. Aspetta un attimino che sto cercando di trovarlo per metterlo a coppa, che non me lo dà. E cos'è che non ti dà? La potenza. Riabbassa di nuovo quel tasso, capito? E torna alla frequenza normale. Quello serve per abbassare, quando abbassi quel tasso, ti dà la frequenza, il watt che stai uscendo. Poi lo ritocchi e riesce normale, insomma, la frequenza. Sì, ma cosa? Aspetta un attimino. Andare per la potenza, quale devo... Cos'è? Antivox? Cos'è che devo toccare? Non devi toccare niente, solo quello il tasto di display. Quello devi solo toccare. Per aumentare poi 2000, dopo ritocchi e torni normale, hai capito? La frequenza è sempre quello lì. Io, infatti, poi e guarda il mio com'è. RF Power, cosa vuol dire? Cosa? RF Power. Aspetta, metto gli occhiali. Tu sta a sinistra, non devi toccare niente, tu devi andare solo, lì c'è la manopola, la manopola del WFO, solo questa solo di display devi toccare, basta, non devi toccare altro. Poi giù c'è già che io ho visto come sono, M4, WFO, com A10, capito? Guarda c'è mio come adesso. Potenza l'ho già toccata, ci sono già riuscito. Stavo uscendo meno della tua e l'ho messo. Io ti sento bene, vai, io ti sento benissimo. Tu bene mi senti a me. Io a te sì. Io la potenza non ce l'ho più, ce l'ho meno di. Dovrebbe essere meno di 10. Tu devi andare 27, 255 e 23 e qualche, così. Sì, è abbassata la potenza, ho detto che è già abbassata la potenza. È meno di 10. Grazie. Adesso mi sembra più occupa, poco fa eri più perfetta era. Occupa, eravamo già allontanato. Allora metti la 3 che è la più perfetta, dai, metti la 3. Guarda dov'è Gianmarino, adesso è la 3. È più chiara qua, Adesso qua è più chiara la radio. Se fa un passaggio più lungo. Guarda dai, non ho la 3, prova. Oh, meno male, meno male, mi si riesce. È tutto fatto di regolazioni tu. Parecchio sta uscendo bene adesso. Prima era molto cupa, adesso invece è pulita, vai. Oh, più pulita adesso. Lo credo bene, cazzo, adesso va bene. Tu. Adesso va benissimo. Cazzo. Il display tutto quanto è preciso quello che ho io e tu. No, infatti è così. Allora è preciso, no? Già hai visto la foto com'è? Ecco, lascialo così, va benissimo. Vedi che il microfono va bene anche a quell'apparecchio. Solo che tutto sta delle regolazioni. Sta uscendo bene anche con quell'apparecchio, il microfono. Cazzo, cosa vuoi di tutto? Andiamo. Cazzo, devi zifare, cioè muso la perugia di nonni. Non ti avvicinare molto però al microfono, eh. Ah, perché stavo... ero attaccato più sopra. Vabbè, adesso sono 50 centimetri. Abbaccia appena appena l'eco, ma appena però, dai. Guarda a vedere. Va a passaggio lungo. Una, due, tre, prova. 3, 4, 5. È bella chiara, lascia così che va bene, so. Va bene, perlomeno alla ricezione mia si è perfetto. Comunque, adesso è appoggio. Quasi a 10 watt sta andando. 8, dai, 8 watt. Sto dicendo, questi sono apparecchi che con 2 watt va a 8 watt, vedi? E sono apparecchi che vanno così, capito? Questo è a due watt, così che se tu hai messo a 3, però va bene lo stesso a 3, io non ho messo a 3 watt, a 2 watt è anche troppo. Ed è perfetta, è così è perfetta anche quella tu. Lasciala così che è un bombo. Andiamo. Siete, bombo. Mi piace più no. Non ti piace più. Cos'è che non ti piace più tu? No, senza motore. Ma tu mi raggio mai che mi sta mettendo a posto i fogli. Dai. Ora da un po' che non toccavo questa radio. Quindi, anda troppo bene. Anche le stazioni ce ne sono scese a zero. Va bene, sto. Perlomeno io ti sento bene. Capito? Però le ricezioni non sono tutte uguali, ricordati bene, da un apparecchio all'altro la ricezione cambia, a quello magari a un altro puoi sentire magari ti può sentire più curva, l'altro è magari si può sentire più chiara, l'altro è meno chiara, eccetera. Non sono tutti uguali, la visualizzazione è perfetta. Boh. Infatti è così. Ma non che su questa cosa. Tra 8 e quasi da 5 a 8 ci sale con i picchi positivi, quindi manca mezzo arrivi. No, a me mi stanno picchi negativi, invece, vedi? A due facce mi stanno picchi negativi. Se lo metto a 8, 10, allora mi dà picchi positivi. Questo qua è così, Infatti è così, purtroppo facciamo così, vabbè. Mi sale a 7, 8 mi sta salendo con i picchi positivi. Cosa l'altro è parato quasi a zero? Va bene così, va bene, io ti sento bene, perfetto. Per cui a me arriva troppo bene, adesso bisogna anche se trovi qualche null'altro, magari trova a chiedere i controlli, però a me arrivi bene, alla mia ricezione sei perfetto. Va bene, andrà bene così. Poi ogni tanto mi sa che cade nella mano, non vuole dire la mano sopra, se deve essere caldo. E tu, se devi cucinare spaghetti, metterci la pentola sopra e gli altri la cucini. Quegli apparecchi sono fatti così, devo avere una certa temperatura, capito? Sono fatti così, certo, e per cui non ci sono problemi, capito? Capito ciò? Infatti, non tanto mi pongo la mano sopra per cadermi la mano, perché sennò mi attacca bene che mi si accende. Vabbè, cazzo, in questo periodo oggi magari c'è più fresco, per cui non è che è caldo, capito? Magari quando fa caldo è chiaro, in estate magari è molto caldo. Adesso non è molto caldo, io lo tocco, insomma un po' di temperatura c'è, però non molto, dai. Infatti è così, adesso è perfetto. Ed è a zero, se ne parla da zero di stazionari. E come qua non li ho, qua si muove leggermente, ma appena è quasi a zero, non si muove nulla, capito? Sono due fatti, lascialo così, va benissimo, eventualmente è stato regolato diversamente, però va bene, lascialo così, è bella chiara con quel microfono, dai. Prova a mettere il microfono normale, a vedere un po' come esce. Gian Maria, non posso, devo spostarmi un po' di roba per prenderlo. Aspetta un attimino. Siamo qua, non è che dobbiamo lavorare, no. Dai, siamo qua, dai. Noi fino alle 8 qua. Gian Maria, guarda a vedere. 8. Ehi, guarda a vedere, adesso ho messo il microfono normale. Con il microfono normale basta. Te l'ho detto, con questo è tutto diverso. No, è facile. No, dai. Ascolta, Paola, mandami la foto come il display tuo, vediamo un po', dai. Lascia tutto come, mandami la foto. Ma di che cosa? Dell'apparecchio o del microfono? No, del display dell'apparecchio. Come te l'ho mandato io, mandami quella foto. È regolato diversamente il mio, dai. Se tu ti guardi il mio, mente. Perché io sono M4, poi c'è display A, B, A e B sotto, e invece il mio è diverso, M4, Cox, Com, A, G, A, D, C, capito. Guarda che è mio. Sì, io l'ho visto il tuo, è regolato diversamente da al mio. C'è qualcosa in più c'è da te. Cosa, come si chiama? BK in più c'è. Ok. Ma c'è il quadribanda quello lì già. Oh, non è il quadribanda il tuo. Sì, no, ma c'hai qua nel display tuo c'è BK in più, ecco cosa c'è. E io quello non so da dove sia entrato. Ho capito. Se riesci a metterlo preciso a avvio, allora è più perfetto. Forse magari aumenta, però sai cos'è, che con microfono normale con tre watt esce basso. Questo con preamplificato è perfetta, la bella forte, ti ho capito. Purtroppo così, tu usa il preamplificato e lascialo così, poi se devi usare con microfono normale devi aumentare la potenza, allora esci bene ugualmente, capito? Sì, infatti Gianmario, sicuramente è così. Comunque la radio diventa a chiara, però è bassa, ecco, e da preamplificato a questo microfono normale la cambia molto, lasciala con preamplificato che va benissimo, è un buon bo. Ok? E la Gianmaria, tanto mi faccio il scappetto per adoperarlo con le cose della radio che invece c'è la batteria. Vedi adesso la cazzo, adesso è bello forte. È un'altra cosa, tu e quando vuoi caffè allora sei tranquillo. Perfetto, tu va bene anche bene con quel microfono. Ok. La Gianmaria, va bene. Andiamo bene così, infatti, qualcosa rimane, se no si muove appena si muove, la freccetta rimane come stazionare quasi a zero. Appena si muove uguale, nulla, appena, non ce ne sono stazionari, non ce ne sono, capito? Chiaro, magari aumentando la potenza, chiaro, magari qualche cosa in più c'è sempre, cazzo, perché da 5 watt mettendo la 10, chiaro che si solleva leggermente in più, anche se l'antenna non ha stazionaria, capito? Però è la potenza che ti fa sollevare appena il rosmetro, capito? Sì, no, è così, infatti. Infatti è così. Ah, no, andava così, tanto non devo andare a così, se in caso devo io torno per qualche donna più lontano, poi se mi vuole accostare ma cosa, se no dica arrivederci. Ehi, stai tranquillo che ti sento, è bene pure ti sento, va bene tu, cazzo. Cazzo, un bombo, cazzo. Certo, magari con l'occhio te lo confondi un pochettino. Magari c'è la pressione con l'ecco, però senza ecco, come adesso, va benissimo. Sì, se va benissimo così. Ok. Adesso mi guardo a vedere il cavetto. Provo a fare con un filo, con due fili in più, fargli uno spinotto e provarlo a vedere se lo alimentano con la radio. Provaci tu, provaci per un po', dai. Sì. Domani se non c'ho niente da fare me lo muovo in mano, piano piano, a vai Davide, se riesco a fargli un cavetto con il cavetto con il coso. Con due fili fuori. Brecco? Registrato il brecco, avanti. Buonasera a tutti. Buonasera a tu. C'è anche Gianmaria, avanti Gianmaria. ce la fa, domani ma senti la propagazione che c'è tu. No, Antonio, non lo senti. Ah. A parte, Gian Maria, buonasera. Buonasera, come si va? Male. Male, come mai? Sono entrato un pochettino per distrarmi, ma è venuta a mancare mia moglie ieri notte. Male. E cerchiamo di essere più perfetti a tu. E come mai? Ma che cosa hai fatto? Che cosa? Perché? Come lo senti a Antonio? Ma sentiamo se lo sento bene. Ma allora quello che mi ha scritto Natalino eri tu, vedi? Ok, allora, condoglianze, Antu. Grazie. Qua a vedere, ho abbassato il vaso. E tu non sa appoggiare molto al microfono, mettici più lontano appena. Giovanni, è strano, sta andando, sta, io non vedo gli strumenti. Non lo so, è troppo forte il segnale. La radio è un bel forte, tu. Antu. Un bel forte è la radio, hai capito? Esatto, attore c'è un avviso, vai tu. Sì, no, infatti, no, a me fai... Io ti sento bene, ti sento, forse più a Gian Maria, sarò più vicino a te, per quello che lo sente un po'... Però io no, ti sento bene. Eppure ho abbassato i watt adesso sto uscendo a pochissimi watt. Sto uscendo. Ok, dai, vi devo lasciare, dai, ci sentiamo, ciao. Ok, Antu, ci sentiamo alle prossime, stammi bene, mi si dispiace tanto, ok, ciao Antu. Ciao Antu, auguroni, speriamo che tutto sia a posto, dai, vedrai, a domani magari è tutta un'altra cosa, dai, ci sentiamo a tu, così è tu. Così è. E purtroppo. Oggi ci siamo, noi domani no. Siamo tutti di passaggio. Qui che riusciamo a respirare, vuol dire siamo tranquilli. Non respiriamo, vuol dire che se mi dà. Ma non l'hai capito di Antonio. No, ma non si sente bene. Ah, se ne andava da moglie, è moscia mia. Moscia? La moglie? La moglie di Antonio. Allora, mi aveva scritto un messaggio a Natalino. E quando è successo? Ieri. Ah, tu mi piace, mi piace veramente, è davvero strano. Ma allora era malata, era. Non lo so, non so nulla di questo. Ah tu, se sei un ascolto, cazzo, ma ho sbagliato a parte mia, non sapevo niente. Così all'improvviso. Ma mi piace veramente tu. Purtroppo. Siamo fatti così, siamo fatti. Ma fa un piccolo coso, ma no, era che cosa? Noi siamo all'altro mondo. Aspetta. Cazzo, a me piace che cazzo. A che punto mi arrivo, cazzo. Nemmeno te l'aspetto se c'è queste cose. A caso un bambino piccolo pure c'ha. Fate così, purtroppo. Siamo solo di passaggio, Gian Maria. Ma io lo sapevo, io pensavo che stava. Che era tranquilla che c'aveva quella donna, cazzo. Così, ma lo saperlo ieri, cazzo. Mi dispiace veramente. Purtroppo Gian Maria, siamo solo di passaggio, non si può fare altro. Siamo così. Questa è una persona anziana, ragazzi, ma cazzo, giovanissimo. è proprio un bambino piccolo anche, ma speriamo che vada tutto perfettamente, auguriamocelo, e mi dispiace proprio per altri, non l'avevo capito, non avevo capito proprio altri, perché era troppo forte e mi stava spaccando i timpani, e se non me l'avessi detto tu io non avevo capito, io pensavo che non si sentiva bene lui. Oh, l'ha detto lui stesso, che è venuto a mancare ieri notte. Mamma mi ha mandato il messaggio natalino stamattina, ma l'ha mandato. Oh boh, sera mi stava andando il tuo gonfio veli per c'è solo, beh, tutto a un tratto così. Ma speriamo bene, là. E così è tutto. Comunque domani mattina se vuoi salire già ti telefono a te, e domani mattina già esco là, al magazzino a portare cose che mi serve, per cui già ci faccio la scappata, ma se sali già ci sono, dai. Mi faccio la scappata, mi faccio e vedo lì, sempre che mi ha già un po' di cosa da fare. E vabbè, no, non ti perdi niente. Se puoi avvicinarti, già ti faccio uno squillo quando sono giù, va bene, to. Se vuoi, puoi salire, sal, se ho pazienza, sarà per la prossima. No, no, guardo, ti faccio la chiamata che sto venendo, ti faccio, e vediamo, che così, guardo, di farlo domani mattina stesso. E allora ci sentiamo domani mattina al telefono, dai. Io quando sto scendendo magari ti faccio lo studio, poi vedo un po' quando puoi salire o no, capito? Se mi posso trattenere il magazzino oppure no, capito? Ciao Giammarì, mi dai, mi dici se posso venire, io ti dico che sto venendo, ecco cos'è. Così almeno, no? Ma che cosa, rimetto due punti e così rimane ferma. Ehi, d'accordo, so. Va bene così. Bene, bene. Infatti, andiamo bene. Attento, la si sente di questa cosa che sto adoperando? Come? E si sente il vento là. Lascia la portante fissa. No, io non sento niente, non sento niente, perfetto, attorno. No, perché c'ho questo condizionatore che sto mandando aria calda. No, no, non sento nessun rumore, non c'è nessun rumore, attorno, tranquillo. Va benissimo. Da me se trai la televisione, no? No, ce l'ho davanti, ce l'ho. A mezzo che cadendo con Chiccio, che 30 in camera mi pare un po' garietto di freddo. No, io ce l'ho accesa, per cui non c'è il freddo. Sto accesa la stufa dalle 5 e mezzo, per cui ci sta bene, dai. Così che, a uno, ce l'ho a uno la stufa, sennò c'è troppo caldo dopo. Così che adesso lascio sempre a uno. E qua la accendo dopo io. C'ho i cosi accesi, tutti e due. Quindi, uno là e uno qua. Da già beccato di goso, perché sta girando. Così che già sta entrando il calore, così è. Che anche qua va benissimo, dai, freddo, freddo non c'era, prima c'era umidità, però da quando c'è la stufa adesso si sta bene, e se no io ho la stufetta piccolina per i piedi, perché io ho sempre freddo ai piedi, però oggi freddo ai piedi non io, per cui stufetta ancora quest'anno non l'ho accesa, solo la stufa a pelle e basta. Non c'è un po' di umidità solo perché stava piovendo, però no, non so cosa appendeva, mi pare che sia ancora appendeva. Cazzo, è sempre bene, insomma, abbiamo mai sempre bene. Basta fare l'acqua serve, insomma. E deve fare, mi deve stare almeno una settimana piovendo, allora già ci riempiono i bacini, se no è un macello. scatta, sono i vaccini vecchi. Guarda, se rimane due giorni nel vaccino piovendo, sta tranquillo che lei va già fatta. Se fate come ti devi fare. Ma se fa piano piano così, non corre l'acqua, la terra stessa se la assorbe, perché è secca la terra, dappertutto. No, infatti che quello è, ma continua così, se continua così l'acqua a fare, la fa come si deve. Vediamo bene, va. Io sono già 15 giorni più che non scendo in campagna e non so per com'è, come lo è. Una settimana dentro casa solo sto, senza poter uscire. Già andavo così. Vabbè, un po' di umidità, ma ora se si è andata l'umidità. Vabbè, qua da meno umidità non ce n'è. Sì, però se ci sono le stupefacenti è chiaro che l'umidità parte da una parte all'altra, capito? Per cui ci sta bene, dai. Va bene così, tranquilli e pacifici. Sì, va benissimo, va, il latte grillo. Mi devo fare uno spezzone, dall'antenna, da quell'altra antenna a questo apparecchio, a profarlo, a vedere un po' com'è la ricezione di quell'altra maniera. Alla camera dove sei tu, all'altra cosa. Quanto ce ne voglio? Un metro, due metri? C'ho il deviatore dell'antenna, cioè un deviatore dell'antenna piccolino, preciso a quello tuo, a tre, capito? Quello piccolino che avevo dato io, che l'ho visto che era appena. C'ho un deviatore del genere, quell'antenna di fuori e in quello lì, di quel deviatore. Devo fare una spezzone da quel deviatore all'apparecchio. Sarà un metro e mezzo, là. Ah sì, infatti. Un metro e mezzo, insomma, non è piccolino, un metro e mezzo è un bel... E tu non l'hai provato l'anno con l'altra frequenza? No, quale? Cazzo, il PMR non l'hai provato. No, non ce ne ho attaccati di PMR. Ecco cos'è, io ho direttamente cose, ma forse non ci sono capiti, no? Questo c'ha il V1, questo che stai usando. Sì, ci deve andare. Infatti ho detto non l'hai provato tu. No, sa, mi sbaglio, l'ha già provato lì. Ho provato, sì, una volta. Quello volevo fare io, provarlo così, tanto per curiosità a me, non mi interessa quella frequenza, capito? Ma anche per ascoltare qualche volta, capito? Non so, com'era? Non mi ha messo più manco la frequenza. Allora, ce ne sono parecchi, così che... 4,45, 5,25. Ma se non c'è l'antenna non ci puoi andare, ci vuole l'antenna a me. Capito, mi hai detto? Tocca giù di sì. Domani? Non riesco a andarci. Ho messo, Paolo, meno 0,60. Ma l'antenna a me se gliel'hai? Va in automatico di coso, metto il coso e l'antenna ce l'ho già attaccata. Allora tu adesso fila con le frecce che sono sulla sinistra, su e giù, ci sono due frecce, no? Abbassa quella e ti dà quella frequenza, fai sempre abbassa finché lo trovi in 2U, capito? Va direttamente. Ci sto andando. Così è. Così è, infatti automaticamente va direttamente, capito? Però quando devi cambiare in frequenza è chiaro che devi usare le VFO. Sono a punti di frega, te ne so. stazza non c'è nessuno, non c'è mai nessuno lì, per cui risacca tutto. Sono lì. Eia, dimmi tu. No, 060 mi dà. No, 00625. 4,45, 5,25 tu. 4,45, 5,25. Non c'è quasi mai nessuno tu. Poi ci sono altre frequenze che bisogna cercare, hai capito? Però io il PMR ce l'avevo sempre così, perché fa VU, capito? C'è 145, 525 e poi c'è il PMR, quella portatile, 446081, capito? Sì, 4081 è 7, è il numero 7, la cosa è il numero 7, 446081. 446081. E se infatti canale 7 è quello lì, quello è canale 7, 446081, quello è canale sì, canale 7 volevo dire, ma non c'è più mai nessuno, così che no, qualche volta ci puoi navigare lì, qualcuno lo sentirai qualche volta da una parte all'altra, no? Immagino, non c'è mai nessuno, non c'è, non ho fatto mai nessuno. Appunto per quello ci stacca tutto, ci stacca tutto, perché io certe volte c'è dove portatele, non c'è mai nessuno, raramente qualcuno ogni tanto sento a coso 145, 525, ma raramente ne sento qualcuno, capito? Per cui io c'ho i portatili, lo sai. Infatti, non è così infatti, purtroppo. Ok. Mi sa che tutto altro viene sciolto, cosa vuoi fare? Dai, va bene a 27, dai. Dai, che a Cratina già ce la stiamo facendo sempre. Un attimino, Gian Mari. Sì, sono qua, dai. Ehi, Gian Mari. Arrivato? Ehi. Già così. Così, ecco. Vabbè. Però vedi, gira gira, chiudiamo ciò. Ah, eventualmente si lascia stare domani mattina. Ah, cosa ne dici? Così comincio a prepararmi i bacilli e a pigliarmi la. Infatti. Ci sentiamo domani mattina, ci sentiamo domani. Ok. Dai, se è possibile, dopo le 9:30, Ok, to. Il microfono lascialo così, va bene, to, ok? Ok, Gianmarino. Ma tanto non lo lascio gli uffici in chicco, in questo apparecchio. Vabbè, fai come vuoi, to. Va bene, Dango, sei a posto adesso, comunque, tranquillo. Ciao, buonanotte, ci sentiamo. Ok, ciao Gianmarino, stammi bene, buonanotte.